un altro aspetto della problematica del mondo sonoro che ci circonda è l'aspetto pedagogico o di animazione. È un aspetto molto importante, anche se solo da poco sono iniziate esperienze in questo campo. Cioè, si cerca di portare i giovani non soltanto nelle altre materie letterarie o educazione artistica, per esempio, a raffigurare il mondo che li circonda, ma di accostarli anche a un'analisi creativa, se vogliamo, dei suoni del loro mondo abituale. È un'esperienza appunto nuova perché, come sappiamo, nelle scuole fino adesso questa prassi non esiste. In alcuni paesi comunque attività di questo tipo sono già a uno stadio più avanzato. Vorrei brevemente parlare di un'esperienza realizzata dalla radio danese in collaborazione con insegnanti di varie scuole, in cui si cerca appunto di focalizzare i vari problemi connessi alla possibilità di portare i giovani a un'analisi del mondo sonoro che li circonda, a una presa di coscienza del mondo sonoro nei suoi vari aspetti, e attraverso questo appunto arrivare a una conoscenza più approfondita, più dettagliata del loro reale, della realtà in cui si muovono. In Italia l'educazione musicale, appunto, a parte i ben noti problemi che da anni la affliggono, naturalmente è rimasta ancora più legata a schemi più tradizionali, cioè a un fare musica, a accostare i giovani a una prassi strumentale o vocale che comunque, più di ogni altra cosa, si riallaccia a modelli di un fare musica più abituale, più conosciuto. Ci sono comunque alcune esperienze anche qui in cui il mezzo sonoro è proprio usato in direzione di un'analisi, di una verifica dell'ambiente, e vorrei parlare qui di un'esperienza fatta in Toscana, a Pontassieve, da un giovane musicista, Guido Bresaola, che lavorando con bambini handicappati usa, oltre a strumenti e varie sorgenti sonore costruite ad hoc, anche il registratore, microfono e registratore, come un mezzo per portare questi ragazzi a rendersi conto dei suoni e della realtà che li circonda. Questo esempio che sentiremo, di cui sentiremo a breve parte, è stato registrato appunto dai bambini stessi, e dopo la registrazione appunto si ascolta quello che è stato registrato, si cerca di capire, di analizzare e studiare un po' ciò che è avvenuto. Ora gonfia un pallone, vola. Via, allora si ricomincia, for pronti dalla parte destra, via, su. Ah! Via. Guarda, ecco, lo dice lui, lo dice Luciano. Guarda ragazzi, in classe dopo gli esercizi via. Questo esempio, che rientra nella stessa categoria ma non si rivolge ai bambini ma alle persone anziane, è in fase di allestimento a Londra. Si chiama Remembrance Aid Project, cioè aiuto al ricordo, se vogliamo, ed è finanziato dal Dipartimento della Salute Pubblica della città di Londra. Consiste brevemente in questo: uno dei problemi maggiori negli ospizi e nei ricoveri per le persone anziane è costituito dalle persone vecchie che non hanno più nessun punto di contatto con il mondo attuale che li circonda, e perciò si chiudono in una apatia totale, non partecipano più a niente di ciò che succede intorno a loro. L'equipe che lavora al Remembrance Aid Project si è perciò posto come punto di partenza questo, attraverso la collezione di materiali acustici ed anche visivi relativi ai periodi della maturità adulta di queste persone, cioè di 30, 40, 20 anni fa, e si cercano di attivare dei ricordi, dei punti di collegamento con il passato, e questo collegamento dovrebbe attivare degli interessi, una partecipazione in queste persone altrimenti completamente apatiche. Così vengono messe insieme, montate su nastro, sia video che audio, registrazioni di fatti salienti di queste epoche più o meno lontane, sia fatti di cronaca, suoni ambientali dell'epoca, anche esempi musicali. Queste cassette, questi nastri vengono poi fatti sentire o vedere in questi ospizi. Gli ammalati stessi possono scegliere quale materiale vogliono ascoltare, quale materiale vogliono riascoltare. Sembra che questo progetto dia dei risultati abbastanza interessanti, che vanno oltre alle speranze iniziali. Per il momento anche alcuni di questi materiali sono stati diffusi via radio e hanno avuto una risposta abbastanza intensa da parte della popolazione anziana. Vorrei ora farvi ascoltare alcuni secondi della documentazione audio di un progetto mio, di un'azione che si chiama Amplificazione Disponibile, e consiste appunto nel mettere a disposizione della gente incontrata in vari punti di una città un'apparecchiatura di amplificazione portatile. Ho realizzato questo pezzo in vari punti, in varie città, sia in Italia che all'estero, raccogliendo a volte delle reazioni abbastanza singolari. L'esempio che ascolteremo è stato realizzato via Bologna nel giugno 78 davanti alla fiera. Chi vuole utilizzare questo impianto? Chi vuole fare un saluto, un commento, una qualsiasi cosa? Il signore vuol dire qualcosa? No. Cioè, probabilmente il fatto, cioè, di riuscire a riempire la pancia tutti i giorni abbastanza bene e di avere i soldi così per andare a ballare, ha risolto tutti i problemi delle persone, e sono tutti felici, sono tutti contenti. Cioè, io vedo, cioè, mi trovo di fronte veramente a una volontà proprio di non discutere anche dei propri problemi personali, no? Ma si tende tutti a rifugiarsi veramente, cioè, troppo nella politica, a mio avviso. Cioè, al limite uno ha dei problemi personali, no, gravissimi, e poi, cioè, si mette a discutere, no, della congiuntura, dei salari, eccetera, ma a un certo punto proviamo a discutere anche delle cose che sentiamo da vicino, dei problemi che ci interessano veramente, no? E forse, cioè, il fatto di migliorare noi stessi probabilmente a questo punto